16. Il conte di Warwick prese posto su uno scranno d'ebano e cuoio, a fianco del segretario di Stato, e studiò il terreno. Giorgio III, la regina Carlotta e 9 principi. Buon segno, la presenza dei figli significava curiosità. La curiosità produceva domande. Le domande producevano punti. Sua maestà pareva di buon umore. I boccoli ai lati del viso erano curati alla perfezione. Giorgio III non usava parrucche, a quanto si diceva per paura che riscaldare il cranio potesse danneggiargli il cervello. In ossequio alla moda si faceva pettinare e incipriare la criniera come se fosse posticcia. Un'operazione che lo innervosiva spesso al punto da doverla sospendere, con risultati tragici in termini di acconciatura. La regina, ormai prossima al parto, aveva scelto una veste rosa, larga, con molti pizzi. I capelli erano arricciati sopra la testa, senza fronzoli. Gesti e postura dicevano che un'ora prima, guardandosi allo specchio, Carlotta non era rimasta delusa. L'aspetto dei principini contava poco, difficile persino identificarli con precisione. A parte 4 adolescenti, maschi e femmine si somigliavano tutti. In quel momento la porta dello studio si spalancò e il maestro di cerimonie diede inizio all'incontro. «Il colonnello Guy Johnson», annunciò, «commissario del Dipartimento per gli Affari Indiani delle Colonie Settentrionali». Il capodelegazione comparve sulla soglia. Fece subito un primo inchino, un secondo al centro della stanza, il terzo a destinazione, sfiorando con le labbra l'anello di Sua Maestà e la mano della regina. Movenze non proprio da ballerino, leggera incertezza sugli ultimi passi, ma tutto sommato una buona prova, che non tradiva emozioni, ma scontava l'inesperienza. Dietro di lui, non molto più aggraziati, avanzarono gli altri 4. Daniel Klaus, il peggiore in assoluto. Goffo, impacciato, tedesco. Per sua fortuna anche la famiglia reale era di quelle lande e non aveva grandi tradizioni in fatto di eleganza. Dei 2 principi indiani, il più appariscente era il principe Thayendanegea. Mantello di seta rossa, copricapo di penne d'aquila, cintura di conchiglie, collana di artigli d'orso. Philippe Lacroix, molto più sobrio nell'aspetto, non indossava nulla di indiano. Il ragazzo, Peter Johnson, portava un abito cucito dal miglior sarto di Londra. Sul volto del re nessuna espressione particolare. La regina socchiuse appena le palpebre. I mocciosi restarono composti. «Altezze reali», disse il nuovo entrato, «prima di introdurre al cospetto delle vostre maestà gli uomini che hanno l'onore di accompagnarmi, permettete che corregga quanto appena annunciato dal maestro di cerimonie». Warwick ebbe una smorfia di disappunto. Non era quello il discorso che avevano provato. Il maestro di cerimonie era un uomo permaloso, bisognava lasciarlo stare. «Non è mia abitudine scrivermi titoli che non mi spettano», proseguì Johnson, «e non vorrei, a causa di un banale errore, passare per impostore di fronte alle vostre maestà. L'incarico di commissario per gli affari indiani mi è stato affidato dal mio predecessore, Sir William Johnson, e dai capi delle 6 nazioni irochesi, ma ancora non ha avuto la conferma del sigillo reale. Il solo titolo di cui posso fregiarmi, dunque, è quello di colonnello della milizia di New York». «Giocata rischiosa», pensò Warwick. Era stato lo stesso Johnson a presentarsi al cerimoniere come commissario. Aveva provocato l'errore solo per correggerlo e infilare la pulce della nomina nell'orecchio del re. Ora il cerimoniere poteva decidere di vendicarsi. Era l'orecchio di Londra dentro le stanze reali. Poteva mettere in giro voci, seminare dubbi sul punteggio, anche se di norma i verbali del segretario di Stato erano inequivocabili. Un punto per ogni sorriso del re, 2 per gli apprezzamenti, 3 per le domande. Le frasi di circostanza valevano 0, le interruzioni infastidite meno 2. Un'udienza ben riuscita doveva totalizzare almeno 8 punti. Le scommesse sui risultati attiravano il bel mondo almeno quanto i cavalli. Il re alzò un sopracciglio e fece segno di proseguire. La regina si sventagliò. Uno dei mocciosi venne portato a pisciare. Guy Johnson terminò il discorso, si fece da parte e con un cenno del braccio additò a re Giorgio la delegazione americana. Toccava al tedesco. Fece un passo avanti mentre il commissario lo presentava con voce stentorea. Warwick si morse il labbro. Klaus aveva l'aria affaticata e pallida tipica dell'onanista. Occhi, naso e bocca parevano pigiati dentro una scatola troppo piccola. Quando si inchinò a baciare l'anello del re, sembrò che dovesse valutarne la pietra. Fece il discorso concordato, breve breve, per non offendere le orecchie regali con quella pronuncia sgraziata. La regina chiuse il ventaglio di scatto e domandò a Klaus di quale regione tedesca fosse la sua famiglia. Miracoli dell'accento teutonico e della nostalgia di Sua Maestà per il puzzo di cavoli e salsicce. Senza nemmeno azionare il cervello, Daniel Klaus aveva messo a segno un punto e mezzo. Purtroppo le reazioni della regina valevano la metà rispetto a Re Giorgio, che invece era rimasto impassibile, gli occhi da rospo puntati al centro della sala. Warwick intrecciò le dita sotto il mento. Era il turno del campione, il pezzo forte, l'uomo che poteva cambiare faccia all'incontro e portare a casa i 7 punti mancanti. Johnson lo presentò in modo piatto. Un pessimo inizio. Niente Sua Altezza, niente principe, soltanto capo Joseph Brandt Thayendanegea e basta. L'indiano avanzò, Apollo del Nuovo Mondo, emblema in carne e ossa di virilità e forza serena. Piegò il busto di fronte al re, baciò la mano della regina, indietreggiò. Warwick non poté fare a meno di coprirsi la bocca con le mani. Il principe, il campione americano, aveva dimenticato l'anello del re. Un pomeriggio intero a provare la cerimonia con il maestro di danza e poi un errore banale mandava in vacca tutto il lavoro. Prima di lasciarsi andare allo sconforto, il conte studiò l'espressione di Giorgio III, la mimica del volto che rappresentava l'impero. Non c'erano segni di stizza. Le labbra distese, l'incarnato chiaro, senza rossori, le mani appoggiate in grembo. Guardò il segretario di Stato. Scriveva il verbale con il solito scrupolo. Tese l'orecchio al discorso del principe. Come da copione, aveva sfilato dalla spalla una delle cinture e la teneva sollevata con entrambe le mani. La cintura, stava spiegando, rappresentava l'alleanza delle 6 nazioni con la corona d'Inghilterra. Le 6 nazioni erano pronte a combattere i nemici del padre inglese, ma prima di farlo volevano sincerarsi che il padre inglese fosse pronto a combattere i nemici delle 6 nazioni. Le alleanze, infatti, o sono reciproche o non sono. Fu l'enfasi sull'aggettivo reciproche a illuminare Warwick su quanto era accaduto. Ricordava bene come il principe si fosse informato con attenzione sul significato di ciascuna riverenza. Il bacio dell'anello era l'omaggio richiesto ai sudditi. I ministri stranieri si limitavano all'inchino. Parlare di alleanza e fare un gesto di sottomissione sarebbe stato contraddittorio. Il principe aveva evitato il dilemma. Non c'era un punteggio previsto per una simile genialità, ma poco importava. Tutta Londra ne avrebbe parlato. Inseguendo fantasie di gloria, Warwick si perse la domanda della regina. Il principe rispose che il suo nome indiano significava Lega due bastoni, ovvero sia Piazza due scommesse. Alla parola scommesse, gli occhi di Warwick planarono su Re Giorgio. Sua Maestà aveva un debole per i cavalli. Le labbra regali tremarono appena. Warwick preferì non guardare. «Quale sarebbe la vostra doppia scommessa, capo Brandt?» Warwick tenne le palpebre socchiuse. «Scommetto sulle 6 nazioni, maestà, e sulla corona d'Inghilterra!» Da dietro le ciglia, il conte vide il re aprirsi in un sorriso, che era il sorriso di milioni di inglesi. L'impero britannico sorrideva al principe Thayendanegea. 5 punti e mezzo, 7 in totale, era quasi fatta. Un altro sorriso del re, un apprezzamento della regina. Niente di impossibile, ma già una bella impresa per il ragazzo, al quale ora toccava intervenire. Warwick si augurò che fosse all'altezza dello zio. Peter Warren Johnson, figlio naturale del defunto Sir William Johnson da Johnson Hall. Il ragazzo fece un passo avanti, piuttosto sicuro. Si produsse in inchini e baci, ivi compreso l'anello di Sua Maestà. Con gesto lento e plateale sfoderò una spada e andò a deporla ai piedi di Re Giorgio. La spada era quella di Ethan Allen. Il ragazzo spiegò che il capo dei ribelli l'aveva consegnata a lui in persona e ora lui ne faceva dono a Sua Maestà come segno tangibile e auspicio di gloria per l'alleanza, eccetera, eccetera. Ci fu un brusio da parte dei mocciosi. Poi il più grande si avvicinò alla madre e le sussurrò qualcosa all'orecchio. La regina si schiarì la voce. «Il principe Giorgio Augusto vorrebbe sapere come avvenne la cattura di quel famoso bandito». Warwick esultò. Una domanda per bocca della regina, un punto e mezzo, il paradiso. Il ragazzo si produsse in un resoconto avvincente, né troppo lungo né troppo succinto. Re Giorgio annuiva compiaciuto. Terminata la storia, continuò a dondolare la testa tra sé, come per cullare un pensiero. Quindi si interruppe e per la seconda volta schiuse le labbra. Si congratulò col ragazzo, ne lodò il coraggio e per un paio di minuti si perse in un monologo su quella virtù così preziosa. Warwick faticava a seguire il filo del ragionamento. Il re parlava con una strana cantilena che lo faceva sembrare sempre emozionato, sul punto di piangere. Faceva pause sgrammaticate tra una parola e l'altra. Lasciava le frasi in sospeso dopo le congiunzioni. La vulgata diceva che era un modo per mascherare la balbuzie, ma i più informati sostenevano che c'era sotto qualcosa. Il re aveva problemi di nervi, era ipersensibile, doveva davvero trattenere i singhiozzi. Lacrime o no, la lunga digressione terminò in una domanda. «Dite, signor Johnson, quale caratteristica vi spinge a considerare tanto solida e invincibile l'alleanza tra la corona d'Inghilterra e le sei nazioni irochesi?» Il ragazzo era una rivelazione. Appena possibile, doveva trovare il modo di premiarlo. Warwick aveva perso il conto esatto dei punti, almeno 10. Un'udienza così lo avrebbe proiettato tra i favoriti di Sua Maestà, scavalcando in classifica pezzi grossi come Carmarthen e Windermere. «Non saprei rispondere, maestà», iniziò il piccolo fenomeno. «Nessun pesce, infatti, saprebbe dirvi perché il mare è superiore alla terraferma. Esso è il suo mondo ed egli non può tradirlo né spiegarlo. Così è per me l'alleanza tra l'Inghilterra e le sei nazioni. Sono un suddito di vostra maestà, come lo era mio padre, e sono un Mohawk del clan del lupo, il clan di mia madre e di mio zio Joseph Brant». Re Giorgio sorrise con franchezza, poi si alzò, un gesto inedito, mai visto. Raccolse la spada di Ethan Allen e la riconsegnò a Peter Johnson. «Non intendiamo farvi torto, signor Johnson, restituendovi un dono, ma vorremmo che teneste voi la spada che avete conquistato. Promettete soltanto che tornerete a portarcela quando avrete sul petto i gradi di generale». Adesso era Warwick a trattenere le lacrime. Doveva avere la febbre. Le parole di Sua Maestà gli giungevano come da un altro pianeta. Seguì il resto della cerimonia quasi sotto ipnosi. Gli inchini, i saluti, i ringraziamenti. Si congedò con salamelecchi da pupazzo meccanico e infilò la porta per ultimo. Il mondo delle udienze non sarebbe più stato lo stesso.